5 minuti di tempo. No, non abbiamo 5 minuti di tempo, nel senso che quello c'è anche di più, però. L'idea era un po', adesso da parte nostra, un po' quello di dare un feedback ai... a chi ha suonato. Secondo me un po' la cosa dei colori l'avete seguita, nel senso che a me sembrava che ognuno di voi seguisse un colore, mi dava un po' l'impressione. Per esempio, personalmente, questa è una, comunque almeno qualcuno di voi in parte ha seguito comunque un colore, ha cercato di percorrere la linea temporale della partitura. Forse anche la forma. Che la forma. In generale sicuramente siamo partiti tutti con quel segno. Questa è stata un po' una cosa che molto forte. E poi ho notato, cioè la mia interpretazione, non so, a me mi è sembrato di vedere questa cosa qua, che più o meno Adriano non ha seguito il colore, però ha seguito più o meno l'andamento del colore verde. È quello, soprattutto il verde. Sì. E anche un po' si è fatto influenzare nel giallo nella parte finale, per esatto. Esempio. Sì, sì, ho seguito quello. E invece, per esempio, per quanto riguarda Bozzi l'ho visto, sicuramente era il blu. No, l'ho fatto. Vabbè, cioè, però, aspetta un attimo. Secondo me, per... No, scusa, non il blu. No, ho sbagliato. Volevo dire il giallo. Il giallo che, vabbè, a parte l'inizio e poi dopo praticamente questa cosa qua che faceva questi interventi all'interno un po' del lavoro che comunque stava facendo Adriano, e un po' hanno fatto questo gioco di onde, quasi di tessiture che si incastravano l'una con l'altra. Invece Fabrizio un po' mi dava un po' la sensazione di seguire un po' il blu, perché non so, anche perché i gesti sono stati molto forti, molto importanti. È un po', non so se l'avete notato, ma c'è anche una terza dimensione in questa partitura, c'è anche la dimensione dello spessore della vernice. Sì. Cioè, se lo guardi lo devi guardare un po' di più. Bisogna guardarlo anche così. No, bisogna oppure al tatto si può sentire il però io me ne sono accorta adesso perché sono qua. Però la mia secondo me Bozzi ha seguito anche la parte di sotto. Sei andato subito lì dopo il questo momento era chiaro, a fare una sorta di episodi più si asciugano, si allungano di punti, poi c'è poi fatto il foglio a un certo punto il blu, il blu dovrebbe essere il silenzio, invece io ho mandato un foglio. Questa è una bella cosa, sì. Sì. Lo sfondo, cioè neutro. Però nell'altra parte finale c'era l'idea dei suoni ripetuti, sì, quelli blu. Sì. Alla fine ho cercato di fare un suono, dall'alto verso il basso, che si smontasse, si destrutturasse la mano del segno veramente. Sì. Parole buone. Invece Fabrizio, io di fatto non ho seguito niente, nel senso, cioè, niente, stavo più appresso a voi perché c'erano delle cose solistiche evidentemente, come abbiamo fatto all'inizio, no? Dove sì. Eravamo in tre a fare la stessa cosa, e poi così l'idea di avere più delle cose in parallelo, quindi stavo piuttosto battito libero, no, o a stare su quello che stavate facendo, sì, diciamo, a seguirvi o a proporre qualcosa di diverso. Cioè, non ho seguito la partitura nel senso, diciamo, era più, diciamo, c'erano più o meno, diciamo che tre cose. Una cosa dove tutte e tre facevamo la stessa cosa, una cosa dove tutte e tre facevamo cose diverse o in coppie diverse, e poi l'idea di questo sfrangiamento sì. Finale. Io ero piuttosto su quest'idea formale, diciamo, più che farla sul dettaglio, anche perché appunto come componentista ovviamente ti propone delle cose che è difficilissimo stare appresso, certo. Sì, beh, è chiaro, per cui quindi più complessa la cosa. Quindi un pochino ti devi astrarre, non puoi stare su quel dettaglio. Questo c'era anche una variante di termini di durata delle varie parti, no? Perché sì, questa parte di sfrangiamento a me sembra molto più diluita, cioè l'avete condotta con molta più calma rispetto per esempio alla durata che possiamo vedere lì, che era un terzo dell'immagine, invece probabilmente è durata di più, sì. Molto. Quasi metà. La parte sfrangiata poi dalla parte finale, parte sì. Finale. Che poi da quando sì, Adriano ha iniziato sì, a fare quella parte più veloce, diciamo, quella sì, la parte lì, sì, poi quella lì è andata a morire, è andata quella lì. L'ho iniziata sì, probabilmente con un certo sì, anticipo rispetto no, a mille anni. Eravamo andava benissimo, cioè, però non era. Sì, io avevo idea a un certo punto, no, che di prendere quei segnali blu alla fine come chiaro, sì, sì, una chiara fine, segnale, no? Sì. E invece ho sentito che continuando voi mi avete dato la possibilità di interpretare quell'intervento lungo non come tutte le linee blu, ma come una parte di quelle linee, quindi rifare una seconda e una terza parte di smollamento della corda. Sì, sì, sì. Quindi è stato. Cioè prendi il segnale, però poi vedi anche cosa succede. Seguiamo la. Io mi sono fatto una tabella di margine proprio con i tempi precisi, quindi la voglio mantenere. Scusate se sono. Che tronco il discorso, ma sono le ore 17, anzi 16:59. Quindi per essere puntuale alle 17. Adriano, come la vedi? Se apro qua per uscire a fumare qua, suona l'allarme, antincendio. Non dovrebbe esserci allarme. Ok. Quindi passa, direi che possiamo fare, se avevamo bisogno di una pausetta, un minuto per prendere una boccata a dare. Una sigaretta, un minuto. Tanto la partitura possiamo fare anche fuori, no? Possiamo farla anche fuori, il coso della partitura, sì? Controllo se... Aspetta, ok, allora facciamo 5 secondi. Prossimo gruppo sei tu, Silvia, e Travis. Poi facciamo io, Alessandra, più complessa, vediamo un po' uno strumentista, uno che vuole ripetere, cioè che bello questo, è fatto bene. Comunque no, ci ricordiamo di... Sì, mettiamo in pausa, anche qua, no, sennò qua diventano... Sì, tu che te lo devi no, tanto taglio, no, le pause le ho faccio messo un attimo, ok, bene. Thank you. foto Enrico è questa. Ah, ok, le hanno fatte loro. Sì, sì, sì, abbiamo solo. Se l'avessi creato tu. Lo fanno anche su commissione? Sì, sì.